che cerco ben ritrovo. Questa porta sciagurata. Piano piano l'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir. Oh! salvo, in tal tempesta, è un prodigio, in verità, è un prodigio, in verità, in verità, in verità, è un prodigio, in verità. Per la testa se mi saluta che questa non dice per il cuore. Se mi salvo, se mi salvo, in tal tempesta, è un prodigio, in verità, è un prodigio, in verità, in verità, in verità, è un prodigio, in verità. Impensato, ordini pensieri. Questi panni venisti qua per qualche tradimento. Tradimento, a punirlo. Anzi a me. No, no, a me. Accopatelo, metto tutti tre.